Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Filotea, introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Ascoltatore, la fioraia Glicera sapeva variare con tanta abilità la disposizione e l'accostamento dei fiori che con gli stessi fiori riusciva a comporre un numero incredibile di mazzetti diversi. Un pittore che voleva gareggiare con lei ci rimase male e perdette il confronto. Non gli riuscì di modificare i suoi mazzetti di fiori dipinti quanto seppe fare Glicera con quelli reali. Lo Spirito Santo agisce allo stesso modo. Dispone e accosta con tanta varietà gli insegnamenti utili alla devozione trasmessi per mezzo della lingua e della penna dei suoi servi, in modo che la dottrina rimane sempre la stessa. Le espressioni invece sono molto differenti, a seconda dei vari modi con cui vengono esposte. Quasi tutti coloro che hanno trattato della devozione si sono interessati di istruire persone separate dal mondo, o perlomeno hanno insegnato un tipo di devozione che porta a questo isolamento. Io intendo offrire i miei insegnamenti a quelli che vivono nelle città, in famiglia, a corte, e che in forza del loro stato sono costretti dalle convenienze sociali a vivere in mezzo agli altri. Costoro, molto spesso, con la scusa di una pretestuosa impossibilità, non vogliono nemmeno pensare all'eventualità di condurre una vita devota. Sono convinti che, come nessun animale osa assaggiare il seme dell'erba denominata palma Christi, così nessun uomo deve tendere alla palma della pietà cristiana finché vive in mezzo agli affari terreni. Io voglio dimostrare che come la madreperla vive in mare senza assorbire una sola goccia d'acqua marina e come vicino alle isole si trovano sorgenti di acqua dolce in mezzo al mare, così un'anima forte e costante può vivere nel mondo senza assorbirne i veleni. Può trovare sorgenti di pietà incontaminata tra le onde torbide del secolo. Può volare tra le fiamme degli insani desideri terreni senza bruciarsi le ali del desiderio della vita devota. So che è un'impresa difficile, per questo vorrei che molti vi si impegnassero con maggiore serietà e decisione di quanto non abbiano fatto finora. È vero che io sono debole, ma con questo scritto mi sforzo ugualmente di offrire un sostegno a coloro che, con cuore generoso, vorranno cementarsi in questa impresa. Tempo fa un'anima eletta e virtuosa ebbe da Dio la grazia di desiderare la vita devota. A tal fine richiese il mio aiuto. Da parte mia ero in debito con lei. Già da molto tempo avevo notato in lei chiare disposizioni. Presi seriamente cura di lei e dopo averla guidata attraverso tutti gli esercizi idonei a realizzare la sua aspirazione, le lasciai degli appunti scritti perché all'occorrenza potesse farvi ricorso. In seguito li diede in visione ad un religioso, persona dotta e devota, che li giudicò utili a molti altri e per cui mi spinse a pubblicarli. Non gli fu difficile convincermi perché l'amicizia che ha per me gli dà molto ascendente sulla mia volontà e la sua saggezza gli conferisce grande autorità sulla mia opinione. Al fine che il tutto risultasse più utile e piacevole, l'ho riveduto e un po' riordinato, completandolo con vari consigli ed insegnamenti che ho giudicato opportuni. ma ho dovuto sbrigare tutto questo lavoro senza disporre di molto tempo. Per questo non ci troverai nulla di ben disposto, ma soltanto un cumulo di consigli dati con semplicità, spiegati con parole chiare e facili. Perlomeno è questo che avevo intenzione di fare. Per quello che concerne gli abbellimenti letterari, non ho voluto nemmeno pensarci, ho altro da fare. Rivolgo le mie parole a Filotea. Volendo mettere a disposizione di molte anime ciò che in un primo tempo avevo scritto per una sola, uso il nome comune a tutte quelle che vogliono essere devote. Filotea, infatti, vuol dire amante o desiderosa di amare Dio. Pensando all'anima che attraverso la devozione aspira all'amore di Dio, ho diviso questa introduzione in 5 parti. Nella prima, con richiami severi e pii esercizi, cerco di portare Filotea a mutare il semplice desiderio in un fermo proposito, che alla fine, dopo la confessione generale, porterà a compimento con una decisa promessa di fedeltà. Seguirà la Santa Comunione, nella quale, donandosi al Salvatore e ricevendolo, entra felicemente nel suo santo amore. A questo punto, per aiutarla ad avanzare più speditamente, le indico 2 mezzi sicuri per unirsi sempre più alla Divina Maestà. I sacramenti, per mezzo dei quali il Signore viene a farci visita. E l'orazione, con cui ci attira a sé. Questa è la seconda parte. Nella terza, le indico come debba esercitare le virtù più particolarmente efficaci al suo progresso, soffermandomi soltanto per darle alcuni consigli che altrove non troverebbe. Nella quarta, la conduco a scoprire qualche inganno del nemico, le insegno a trarsi d'impaccio e a passare oltre. Finalmente, nella quinta parte, la guido un po' in disparte, per rinfrescarsi, per prendere fiato, recuperare le energie. Potrà così più felicemente conquistare terreno ed avanzare nella vita devota. La gente del nostro tempo è molto strana. So già che molti diranno che è compito esclusivo di gente devota assumersi una responsabilità così impegnativa di guidare le anime in un cammino di devozione. Ci vuole più tempo di quello che può trovare un vescovo con il carico di una diocesi così pesante come la mia. In più, lo scrivere distoglie l'attenzione da cose molto più importanti. Ma, caro ascoltatore, io ti dico con il grande San Dionigi che spetta proprio ai vescovi guidare le anime alla perfezione, perché il loro ordine è il più alto istituito tra gli uomini, a somiglianza di quello dei serafini tra gli angeli. Ne consegue che il loro tempo non può essere speso meglio di così. Gli antichi vescovi e i padri della Chiesa erano fedeli al loro dovere almeno quanto noi, e tuttavia non trascuravano una guida personale di molte anime che si rivolgevano a loro, come stanno a dimostrare le molte lettere che ci hanno lasciato. In questo imitavano gli apostoli, che pur impegnati nella mietitura del mondo intero, raccoglievano qualche spiga che emergeva con un affetto tutto speciale e personale. Chi non sa che Timoteo, Tito, Filemone, Onesimo, Santa Tecla erano figli spirituali di San Paolo, come San Marco, Santa Petronilla di San Pietro. Dico Santa Petronilla che, come provano i dotti Baronio e Galonio, non era figlia carnale, ma solo spirituale di San Pietro. E San Giovanni non scrive una delle sue lettere canoniche alla devota eletta? Ti confesso che la direzione personale è una grande fatica, ma una fatica che consola, come quella dei mietitori, dei vendemmiatori, che sono contenti solo se hanno molto da fare, se sono sovraccarichi di lavoro. La direzione è una fatica che distende, dà vita al cuore. La tigre che ritrova il cucciolo lasciato dal cacciatore sul cammino, per distrarla mentre porta via gli altri dalla tana, per grosso che sia, se lo pone in groppa e l'agilità della corsa non ne risente per nulla. L'amore naturale la rende ancora più agile con quel peso. sarà ancora meno pesante per un cuore paterno prendersi cura di un'anima incontrata sul proprio cammino, desiderosa di perfezione, portarla tenendola stretta a sé, come fa una madre con il proprio bambino, senza che si senta appesantita da quel fardello cui vuole tanto bene. È evidente che solo un cuore paterno può agire in questo modo, ed è la ragione per la quale gli apostoli e i pastori di anime chiamano i loro discepoli non solo con il nome di figli, ma di figlioletti. Aggiungo che scrivo di vita devota senza essere devoto, ma non mi manca il desiderio di diventarlo. Ed è proprio questo che mi dà il coraggio di parlartene, perché stando al detto di un grande uomo di lettere, un buon metodo per imparare è studiare. Più efficace è l'ascoltare, ma l'ottimo è insegnare. Sant'Agostino scrive alla devota Fiorenza che donare insegna a ricevere, perché insegnare è la base per imparare. Caro ascoltatore, sono convinto che proprio perché sono vescovo, Dio vuole che dipinga sul cuore dei fedeli non solo le virtù comuni, ma anche la carissima e amata devozione. Da parte mia vi pongo mano volentieri, sia per obbedire e compiere il mio dovere, sia perché nutro la speranza che imprimendola nelle anime degli altri, anche la mia si troverà a doverla amare. Se dovesse capitare che la Divina Maestà scoprisse che me ne sono follemente innamorato, me la concederà in matrimonio per l'eternità. La bella e casta Rebecca, dando da bere ai cammelli di Isacco, ne divenne la sposa e ricevette da parte di lui braccialetti ed orecchini d'oro. Allo stesso modo, dall'immensa bontà di Dio, io mi aspetto che, per il fatto che conduco le sue pecorelle alle sorgenti della devozione, faccia sua sposa la mia anima e ponga nelle mie orecchie le parole dorate del suo santo amore e nelle mie braccia la forza di attuarlo. Perché è in questo che consiste la vera devozione. Io la chiedo umilmente alla Maestà di Dio per tutti i figli della Chiesa, Chiesa alla quale voglio per sempre sottomettere i miei scritti, le mie azioni, le mie parole, i miei progetti e i miei pensieri. Contiene consigli ed esercizi necessari per condurre l'anima dal primo desiderio della vita devota fino alla ferma risoluzione di abbracciarla. Capitolo primo. Descrizione della vera devozione. Mia cara Filotea, tu vorresti giungere alla devozione perché sai bene, come cristiana, quanto questa virtù sia accetta a Dio. Ma siccome i piccoli errori commessi all'inizio di qualsiasi impresa ingigantiscono con il tempo e risultano alla fine irreparabili o quasi, è necessario prima di tutto che tu sappia che cos'è la virtù della devozione. Di vera ce n'è una sola, ma di false e vane ce ne sono tante. E se non sai distinguere la vera, puoi cadere in errore, perdere tempo correndo dietro a qualche devozione assurda, superstiziosa. Aurelio dava a tutti i volti che dipingeva le sembianze e l'espressione delle donne che amava. Ognuno si crea la devozione secondo le proprie tendenze, la propria immaginazione. Chi si consacra al digiuno penserà di essere devoto perché non mangia, mentre ha il cuore pieno di rancore. E mentre non se la sente di bagnare la lingua nel vino e neppure nell'acqua, per amore della sobrietà, non avrà alcuno scrupolo nel tuffarla nel sangue del prossimo con la maldicenza e la calunnia. Un altro penserà di essere devoto perché biascica tutto il giorno una filza interminabile di preghiere. E non darà peso alle parole cattive, arroganti ed ingiuriose che la sua lingua rifilerà per il resto della giornata a domestici e vicini. Qualche altro metterà mano volentieri al portafoglio per fare l'elemosina ai poveri, ma non riuscirà a cavare un briciolo di dolcezza dal cuore per perdonare i nemici. Ci sarà poi l'altro che perdonerà i nemici, ma di pagare i debiti non gli passerà nemmeno per la testa. Ci vorrà il tribunale. Tutta questa brava gente, dall'opinione comune, è considerata devota, ma non lo è per niente. Ricordi l'episodio degli sgherri di Saul che cercano Davide? Nicola li trae in inganno mettendo nel letto un fantoccio con gli abiti di Davide e fa loro credere che Davide è malato. Così molti si coprono di alcune azioni esteriori, proprie della santa devozione, e la gente crede che si tratti di persone veramente devote, spirituali. Ma se vai a guardare bene, scopri che sono solamente fantocci, fantasmi di devozione. La vera e viva devozione, Filotea, esige l'amore di Dio. Anzi, non è altro che un vero amore di Dio, non un amore genericamente inteso. L'amore di Dio, infatti, si chiama grazia, in quanto abbellisce l'anima, perché ci rende accetti alla Divina Maestà. Si chiama carità, in quanto ci dà la forza di agire bene. Quando poi è giunto ad un livello tale di perfezione, per cui non solo ci dà la forza di agire bene, ma ci spinge ad operare con cura, spesso e con prontezza, allora si chiama devozione. Gli struzzi non possono volare. Le galline svolazzano di rado, goffamente e rasoterra. Le aquile, le rondini e i colombi volano spesso, con eleganza e in alto. Similmente i peccatori non riescono a volare verso Dio, ma si spostano esclusivamente sulla terra e per la terra. Le persone da bene che non possiedono ancora la devozione volano verso Dio per mezzo delle buone azioni, ma di rado, con lentezza e pesantemente. Le persone devote volano in Dio con frequenza, prontezza, e salgono in alto. A dirlo in breve, la devozione è una sorta di agilità, di vivacità spirituale, per mezzo della quale la carità agisce in noi, o se vogliamo, noi agiamo per mezzo suo, con prontezza e affetto. Ora, com'è compito della carità farci praticare tutti i comandamenti di Dio, senza eccezioni, nella loro totalità? Spetta alla devozione aggiungervi la prontezza e la diligenza. Ecco perché chi non osserva tutti i comandamenti di Dio non può essere giudicato né buono né devoto. Per essere buoni ci vuole la carità, e per essere devoti, oltre alla carità, bisogna avere grande vivacità e prontezza nel compierne gli atti. Siccome la devozione si trova in un grado di carità eccellente, non soltanto ci rende pronti, attivi e diligenti nell'osservare tutti i comandamenti di Dio, ma ci spinge inoltre a fare con prontezza e affetto tutte le buone opere che ci sono possibili, anche se non cadono sotto precetto, ma sono soltanto consigliate o indicate. Come un uomo guarito di recente da una malattia, cammina quel tanto che gli è necessario, piano piano, trascinandosi un po'. Così il peccatore, guarito dal suo peccato, cammina quel tanto che Dio gli comanda, trascinandosi adagio, fino a che non giunga a devozione. Allora, da uomo completamente sano, non solo cammina, ma corre, salta nella via dei comandamenti di Dio. E inoltre prende di corsa i sentieri dei consigli e delle ispirazioni celesti. In conclusione si può dire che la carità e la devozione differiscono tra loro come il fuoco dalla fiamma. La carità è un fuoco spirituale che quando brucia con una forte fiamma si chiama devozione. La devozione aggiunge al fuoco della carità solo la fiamma che rende la carità pronta, attiva, diligente, non solo nell'osservanza dei comandamenti, ma anche nell'esercizio dei consigli e delle ispirazioni del cielo. Secondo. Caratteristiche ed eccellenza della devozione. Coloro i quali volevano scoraggiare gli israeliti dall'entrare nella terra promessa dicevano che era un paese che divorava gli abitanti. L'aria era talmente pestilenziale che nessuno vi poteva vivere a lungo. Per di più, era abitata da mostri che divoravano gli uomini come locuste. Allo stesso modo, mia cara Filotea, la gente della strada dice tutto il male che può della devozione, dipinge le persone devote immusonite, tristi, imbronciate. Va blaterando che la devozione rende malinconici, insopportabili. Ma sull'esempio di Giosuè e di Caleb, che non solo sostenevano che la terra promessa era fertile, bella, ma che il suo possesso sarebbe stato utile e piacevole, lo Spirito Santo, per bocca di tutti i santi e nostro Signore con la sua parola, ci danno assicurazione che la vita devota è dolce, facile, piacevole. La gente vede che i devoti digiunano, pregano, sopportano le ingiurie, servono gli infermi, assistono i poveri, fanno veglie, controllano la collera, dominano le passioni, fanno a meno dei piaceri dei sensi e compiono altre azioni simili a queste, di per sé e per loro natura aspre e rigorose. Ma non sa vedere la devozione interiore, cordiale, che trasforma tutte queste azioni in piacevoli, dolci e facili. Guarda l'ape sul timo. Ne può ricavare solo un succo molto amaro, ma succhiandolo lo trasforma in miele, perché questa è la sua caratteristica. Mi rivolgo a te, persona del mondo, e ti dico, le anime devote incontrano molta amarezza nei loro esercizi di mortificazione, questo è certo. Ma praticandoli, li trasformano in dolcezza e suavità. Il fuoco, la fiamma, la ruota, la spada, per i martiri sembravano fiori odorosi, perché erano devoti. E se la devozione riesce a rendere piacevoli le torture più crudeli e la stessa morte, cosa non riuscirà a fare per le azioni proprie della virtù? Lo zucchero rende dolci i frutti un po' acerbi e toglie il pericolo che facciano male quelli troppo maturi. La devozione è il vero zucchero spirituale che toglie l'amarezza alle mortificazioni e la capacità di nuocere alle consolazioni. Toglie la rabbia ai poveri e la preoccupazione ai ricchi. Toglie la desolazione a chi è oppresso e l'insolenza al favorito dalla sorte. Toglie la tristezza a chi è solo e la dissipazione a chi è in compagnia. Alla funzione di fuoco in inverno e di rugiada in estate, sa affrontare e soffrire la povertà, trova ugualmente utile l'onore e il disprezzo, riceve il piacere e il dolore con un cuore sempre uguale e ci colma di una meravigliosa soavità. Guarda la scala di Giacobbe, che è la vera immagine della vita devota. I due montanti, tra i quali si sale e ai quali sono fissati gli scalini, rappresentano l'orazione che chiede l'amore di Dio e i sacramenti che lo conferiscono. Gli scalini sono i diversi livelli della carità per i quali si sale di virtù in virtù, o discendendo in aiuto e sostegno del prossimo, o salendo per la contemplazione all'unione d'amore con Dio. Ora, dà uno sguardo a coloro che si trovano sulla scala. Sono uomini con il cuore di angeli, o angeli con il corpo di uomini. Non sono giovani, ma lo sembrano perché sono pieni di forza, di agilità spirituale. Hanno ali per volare e si lanciano in Dio con la santa orazione. Ma hanno anche i piedi per camminare con gli uomini in una santa e piacevole conversazione. I loro volti sono belli e radiosi, per cui ricevono tutto con dolcezza e soavità. Le gambe, le braccia e la testa sono scoperte, perché i loro pensieri, i loro affetti e le loro azioni hanno il solo scopo di piacere a Dio. Il resto del corpo è coperto di una tunica fine, leggera, perché sono realmente inseriti nel mondo e usano le cose di questo mondo, ma in modo pulito e limpido, prendendo esclusivamente il necessario. Così agiscono le persone devote. Cara Filotea, devi credermi. La devozione è la dolcezza delle dolcezze, la regina delle virtù, perché è la perfezione della carità. Se vogliamo paragonare la carità al latte, la devozione è la crema. Se la paragoniamo ad una pianta, la devozione ne è il fiore. Se ad una pietra preziosa, la devozione ne è lo splendore. Se ad un unguento prezioso, la devozione ne è il profumo soave che dà forza agli uomini e gioia agli angeli. Filotea, introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.